sono il decollo ma soprattutto l'atterraggio, quando si altera la pressione nell'orecchio, e qui la situazione è diversa se abbiamo a che fare con un bambino piccolo piuttosto che con un adulto. Sì. Nel bambino non possiamo pretendere che compensi da solo, e allora bisogna fargli succhiare una caramella piuttosto che ciucciare il ciuccio o il biberon, piuttosto che fargli bere sorseggiando con una cannuccia magari una Coca-Cola o qualcosa, ecco, che gli permetta di compensare senza volerlo. E questo qua già abbiamo già dato un'indicazione. Per l'adulto, beh, ad esempio, per l'adulto invece di solito la difficoltà a compensare non è tanto legata a un problema di tecnica, perché l'adulto è capacissimo di compensare. Al massimo si mastica una cicca, no? Il cosiddetto chewing gum. E questo aiuta a migliorare la compensazione. Ma se in maniera ricorrente c'è questo disturbo, bisogna indagare un pochino la questione, perché vuol dire che qualcosa non funziona bene o nella tuba oppure nel naso o nel rinofaringe, cioè nella parte che sta dietro al naso. Per, chi... per quel che riguarda invece, che mi aveva chiesto la questione delle apnee, ecco, le apnee, se uno fa fatica a compensare, se uno è un principiante verosimilmente può anche essere un problema di tecnica, però siccome non è così difficile compensare dopo averlo ripetuto magari sotto indicazione del maestro 2 o 3 volte, allora è importante che uno valuti esattamente la funzionalità nasale tubarica anche qui, tant'è che è obbligatorio per chi inizia a fare dei corsi strutturati per imparare a fare il sub e inizia a scendere a determinate profondità, fare queste visite. Dare una controllata a naso e orecchio. Se c'è il disturbo, assolutamente sì. Quindi, come si dice, se dopo la tecnica il disturbo persiste, occorre consultare il medico. Sì. Ma per chi fa immersione, ho pensato che potessero essere utili, oltre che molto graditi, i consigli di un super campione. In linea con noi abbiamo Gianluca Genoni, campione mondiale, e dico mondiale, di immersione di apnea. Ciao Gianluca, bentornato. Ciao a tutti, buongiorno. Allora Gianluca, per tutti i nostri ascoltatori che fanno immersioni, i tuoi consigli che valgono oro? I miei consigli, ho sentito quello che ha detto adesso il dottor Fanzetti, e sono più o meno quello che ha detto lui, cioè se sono raffreddato o se ho dei problemi legati a problemi proprio di raffreddamento, quindi di sinusite o raffreddori o tossi, devo fare attenzione se è il caso o meno di immergermi, soprattutto se non sono un subacqueo o un apneista esperto. Certo. Il catarro così che può far sì che l'aria non passi bene nelle nostre tube e impedisce la compensazione. E lì sono dolori. E lì sono dolori e diventa impossibile proprio l'immersione, la discesa in profondità. Non utilizzare mai tappi prima durante un'immersione, c'è questa leggenda metropolitana che ho dolore alle orecchie, uso un tappo così sento il dolore, e invece non si fa nient'altro che peggiorare la mia situazione, il mio dolore. Ecco, durante l'immersione quello che si dice di fare sempre, quello che si insegna durante i corsi, è quello di anticipare la compensazione, cioè non arrivare mai a sentire dolore sulla membrana timpanica. Appena ne avverto il bisogno, fare subito la manovra di compensazione. In questo modo la pressione interna e quella esterna della membrana timpanica si equilibrano e riesco a scendere ancora senza avvertire problemi. Ecco. Chi è predisposto alla compensazione, cioè chi ha le tube pervie, quindi l'aria passa tranquillamente, difficilmente avrà dei problemi di compensazione. Chi è un po' meno predisposto dovrà fare quella che si chiama proprio la ginnastica tubarica, cioè cercare di apparire, cercare di far passare bene l'aria nelle tube. In questo modo poco alla volta si migliora le capacità di compensazione. Una volta terminata l'immersione, soprattutto se faccio magari discese, faccio immersioni in mari tropicali, sciacquarsi magari le orecchie, l'orecchio esterno al padiglione con acqua borica che pulisce, che toglie questi batteri, quindi evita possibili infezioni. Nel mio caso, che mi immergo da tantissimi anni, non ho mai avuto problemi, non ho mai avuto problemi di nessun tipo, quindi non è, se si è predisposti, se si è un pochino portati, non è assolutamente né difficile né doloroso. Quindi immergersi. Gianluca, tu mi dici che non hai mai avuto mal d'orecchio da immersione? No. Non ho mai avuto grossi problemi, anche se per un motivo completamente diverso, durante un allenamento mi si è scollata la membrana timpanica dalla tuba, quindi mi sono rotto un pochino un timpano, però è un'immersione molto a una profondità molto elevata, molto ho avuto dei problemi strani comunque. Ma dottor Franzetti, non ho mai avuto problemi. Dottor Franzetti, è una cosa rara e pericolosa quella che è capitata a Gianluca? Distacchi così traumatici capitano solo a grandi profondità, oppure se uno si trova a profondità medie però in situazioni proprio che non dovrebbe fare l'immersione, cioè patologiche nell'orecchio. Certo. Ecco. Allora, io ringrazio Gianluca Genoni per essere stato con noi. Tra l'altro ho visto su internet che ci sono veramente tanti gruppi che parlano dei problemi di immersione, quindi aver avuto a te che hai detto soprattutto le cose da evitare, quindi no tappi, soprattutto immergetevi quando state bene, non avete raffreddore e quant'altro, compensate adeguatamente, se non avete le tube ben aperte c'è una ginnastica, vero Gianluca, che si può fare per allenare, per ridurre questo problema. Intanto Gianluca, noi ci sentiamo presto, in bocca al lupo, buone immersioni. Grazie. Ciao. Dottor Franzetti, torniamo a noi umani. Se il mal d'orecchio arriva, però, cosa faccio? Consigli un SOS per i bambini e per chi bambino non è più. Cose da fare e anche le cose da evitare, perché talvolta, presi un po' dal desiderio di calmare subito il dolore, facciamo anche qualche imprudenza. Certo. Allora, per quel che riguarda i bambini, la prima cosa da considerare è che difficilmente i bambini mentono sul mal d'orecchio. E quindi quando un bambino si lamenta o piange perché ha mal d'orecchie oppure dice che non ci sente da un orecchio, bisogna sempre considerarlo. Sì. Il fatto che dica che ha molto mal d'orecchio, la prima cosa da fare è cercare di non fargli far male. Sì. E quindi l'ideale non è sicuramente dare un antibiotico o mettersi a fare gli aerosol perché non danno un sollievo immediato, ma la cosa da fare è una suppostina di un antinfiammatorio o un antinfiammatorio associato a un analgesico, e già ci sono in commercio, associato a delle gocce auricolari, meglio se contengono un anestetico, anche queste sono in commercio. Non bisogna farsi prendere dalla paura di dire oddio, ci sarà la perforazione del timpano, non devo mettere le gocce, non abbiate paura, anche se sul bugiardino c'è scritto così per salvaguardare giustamente le case farmaceutiche, ma quando l'orecchio fa male è meglio mettere abbondantemente le gocce nell'orecchio contenenti anche degli analgesici, che non succede niente. Per quel che riguarda gli adulti, sì? E chiaramente nei bambini poi bisognerà fargli una diagnosi. Certo. Per quel che riguarda gli adulti, invece anche qui l'approccio al mal d'orecchio è un analgesico, un antinfiammatorio per via generale e per bocca, di solito, associato anche qui a delle gocce, sempre date localmente, meglio se contengono un anestetico. Poi ci sono tutta una serie di rimedi, diciamo così, quelli della nonna, che vanno dalle cipolle tritate da mettere in una garza e applicare. Ecco, ci siamo tornati insieme, come promesso è arrivato il momento per sentire le ultime notizie dal mondo della scienza e della medicina, li commenta per noi oggi il professor Giuseppe Remuzzi, coordinatore delle ricerche del Mario Negri di Bergamo. Restate con noi, ci collegheremo subito dopo col dottor Fiorenzuoli, direttore del centro di medicina naturale all'ospedale San Giuseppe di Empoli, che affronterà insieme a noi il mal di gola e il mal d'orecchio. GR Salute. Un elettrocardiogramma per individuare i giovani cuori d'atleta a rischio. L'America impara dall'Italia. Capita di rado, per fortuna, ma qualche volta si legge di un giovane atleta morto d'improvviso durante l'attività sportiva senza alcun preavviso. Queste morti sono causate da alterazioni del cuore che l'atleta non sapeva di avere. C'è uno studio adesso pubblicato in America, sostiene che un elettrocardiogramma fatto a tutti i giovani atleti serve a prevenire queste morti, anche considerando i costi di un'analisi del genere fatta a tappeto. In realtà una ricerca italiana aveva già dimostrato che con elettrocardiogramma si riesce ad individuare tra gli atleti chi è a rischio, sconsigliando quindi l'attività sportiva agonistica, e chi non lo è. In Italia da 30 anni è obbligatorio fare elettrocardiogramma chi fa sport agonistico e adesso questa prassi viene adottata dal Comitato Olimpico Internazionale. In America fino ad oggi l'Associazione dei Cardiologi Americani sosteneva che non era necessario fare l'elettrocardiogramma, bastava, dicevano, una visita medica ed era soprattutto una questione di costi. Fare l'elettrocardiogramma a tutti sarebbe stato troppo costoso, dicevano, a fronte di un numero piccolo di morti evitate. Adesso la ricerca pubblicata su Annals of Internal Medicine dimostra che anche in termini di costo vale la pena di fare l'elettrocardiogramma a tutti gli atleti. Per una volta l'Italia ha fatto tendenza. Bambini in sovrappeso, il segreto è giocare d'anticipo. L'obesità dei bambini è un problema che desta sempre più preoccupazione. Prima si comincia a mettere in atto misure per prevenirla e meglio è, ma quanto prima? Una ricerca dell'Università di Harvard suggerisce che si deve cominciare molto presto, addirittura prima della gravidanza. Secondo questa ricerca, il rischio di obesità dell'infanzia o dell'adolescenza aumenta se la madre è obesa o in sovrappeso prima del concepimento e si aumenta molto di peso in gravidanza. È importante anche come viene nutrito il bambino nei primi mesi di vita. Lo studio ha coinvolto madri di diversa etnia, bianche, nere, ispaniche, e di diverso livello socio-economico. Il rischio, come si poteva prevedere, era maggiore tra le minoranze etniche e nelle fasce più povere. La notizia positiva che viene da questo studio è che si tratta di fattori di rischio che si possono modificare con pochi interventi sulle abitudini di vita. E siamo tornati insieme ad occuparci del tema di oggi: mal d'orecchio, mal di gola. In estate, a differenza di quanto crediamo, succede spesso un colpo d'aria, l'aria condizionata, no, un po' troppo forte, faccio magari una sudata, sono debole di gola ed ecco, la mia gola va in fiamme. Ne stavamo parlando con il dottor Franzetti, ma ci ha raggiunto il dottor Firenzuoli. Buongiorno dottore. Salve, buongiorno a lei gli ascoltatori. C'è un rimedio fitoterapico per prevenire il danno? Se sento che insomma qualche cosa è successo e temo che a farne le spese sia la mia gola, cosa posso fare, dottore? Diciamo, quando c'è un mal di gola che chiaramente non richieda l'uso dell'antibiotico o di altri farmaci di sintesi importanti, una pianta che ha un'attività sostanzialmente antinfiammatoria e quindi può essere usata per le sue proprietà, come dire, astringenti, ecco, sulla fase vascolare dell'infiammazione, è senz'altro l'acrimonia. L'acrimonia, sì, è una pianta ricca di tannini che hanno un'attività debolmente disinfettante e soprattutto antinfiammatoria. La si può usare per esempio per gargarismi, ma anche la si può assumere in estratto idroalcolico o in polvere in compresse, cioè per bocca. Altrimenti, quando ci sia anche il sospetto di un'infezione virale, che sono oltretutto le più comuni, si può ricorrere, sempre rimanendo, come dire, nel banale, a estratti di propoli. Ma ecco, questi due consigli valgono anche per i bambini, dottore? O per i bambini si fa un discorso a parte, erbe diverse? Diciamo che nei bambini abbastanza piccoli, sostanzialmente sotto i 2-3 anni, questi prodotti non vanno usati, ma i prodotti a base di erbe in genere, primo perché sono amari, secondo perché spesso invece c'è bisogno anche di una terapia antibiotica, e ricorrere a questi prodotti, che oltretutto sono anche rischiosi, pensiamo soprattutto ai bambini piccolini, pensiamo ai prodotti a base di propoli, soprattutto quelli in forma di spray, sono oggettivamente pericolosi, per cui escluderei, ecco, proprio i bambini. Ecco, ho fatto giustamente questa precisazione perché voglio che le mamme siano informate. Tante volte noi mamme abbiamo il timore di dare ai bambini i farmaci ed è giusto, perché il farmaco va dato solo quando è necessario, e ripieghiamo volentieri sui rimedi naturali, che perché dottore lei lo sa bene, no? Si pensa tutto quello che è naturale o fa bene o male non fa. Invece ecco, niente di più sbagliato. Lo so che lei da anni con il suo centro si batte, no? per questo, per fare informazioni, per evitare l'utilizzo, no? Insensato e a volte pericoloso di queste erbe. Grazie dottor Firenzuoli per essere stato con noi, buona giornata. Grazie. Dottor Franzetti, noi invece restiamo insieme perché dobbiamo affrontare il mal di gola. Anche la gola, come l'orecchio, può darci dei problemi. Abbiamo cercato anche di capire quando, no, le due situazioni si intersecano, si intrecciano, e lei ci ha dato delle indicazioni. Spesso confondiamo il mal di

massaggi eccetera sono in vendita anche in farmacia. Possiamo trovare dei buoni prodotti, penso alle acque di Sirmione che sono salso bromoiodiche e anche sulfure, penso anche alle acque di Tabiano oppure anche all'acqua marina, perché l'acqua marina è un'acqua termale propriamente detta e quindi ci sono anche la possibilità di fare delle inalazioni o delle spray proprio a domicilio con questi prodotti che sono straordinari. Non è come andare alle terme, no, ma certo, sicuramente aiuta. Insomma, dottor Franzetti, lei è d'accordo come otorino? D'accordissimo. Meglio un soggiorno alle terme, ma nel caso e nell'attesa di organizzare un soggiorno possiamo portarci le terme a casa. Ringrazio. Sicuramente sono dei presidui molto utili. Grazie al dottor Franzetti, grazie al dottor Bonsignori, buona giornata a voi e buon lavoro. Arrivederci. Conoscete i lupini? Sono un classico snack da passeggio delle feste di paese, sono semi giallini che si consumano lessati e salati e ricordano come sapore i ceci. Piacciono a grandi e bambini, ma negli ultimi tempi piacciono soprattutto ai medici e ai ricercatori, conquistati dalle proprietà terapeutiche di questo legume povero ma molto prezioso per la nostra salute. Ne parliamo col professor Sirtori, preside della facoltà di farmacia all'Università di Milano. Buongiorno professore. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Professore, i lupini possono essere a tutti gli effetti inseriti in quel gruppo di alimenti di cui abbiamo parlato di recente, gli alimenti funzionali, in pratica alimenti che oltre a fornire calorie aggiungono anche qualcosa di buono per la nostra salute. Esatto, i lupini hanno una storia molto nobile, nel senso che i soldati romani per combattere non avevano le bistecche, utilizzavano i lupini bolliti in acqua. I lupini di allora erano amari, pertanto buttavano via l'acqua e poi mangiavano questa specie di pasta insieme al pane e a del vino. Più di recente il lupino ha perso interesse, ma negli ultimi anni è tornato grande fulgore perché è uno delle leguminose più ricche in proteine. Il lupino contiene circa il 40%, anche il 45% di proteine. Ecco quindi l'idea di utilizzare le proteine del lupino per fare, come dice lei, alimenti funzionali. Funzionali a che scopo? Primo, abbassano il colesterolo. Le proteine di lupino abbassano il colesterolo come le proteine della soia, forse un pochino di più. Secondo, le proteine del lupino abbassano la pressione, contengono dei piccoli componenti chiamati tripeptidi che hanno un'azione ACE inibitoria. Molti ascoltatori prendono probabilmente farmaci ACE inibitori. Le proteine del lupino contengono delle sostanze che sono molto simili. Infine, più di recente, i ricercatori milanesi, guidati dal professor Duranti, hanno dimostrato che c'è una terza proteina che si chiama conglutina gamma, che potrebbe essere antidiabetica. E quindi ecco l'interesse di questo tipo di prodotti che attualmente sono disponibili in distribuzione relativamente limitata. Ci sono delle cotolette tipo milanese, ci sono dei gelati, fra l'altro squisiti, perché il lupino ha un gusto, diciamo, migliore della soia per quanto riguarda il palato di noi mediterranei, e probabilmente avremo molti altri prodotti in avvenire, latti, similatti e così via, che piacciono molto e possono essere utili alla salute. Grazie allora professor Sirtori, ecco spiegata la rimonta del lupino. Buona giornata a lei. Grazie a lei. Vi ricordate quella canzone che si intitolava Ho un sassolino nella scarpa? Non ve la canto, ma questo mi dà il passo giusto per parlarvi del benessere dei nostri piedi. Chi di noi non ha mai avuto un dolore ai piedi? Magari le scarpe troppo strette oppure un calletto che ci faceva vedere le stelle. E tutti noi abbiamo avuto esperienza che questo dolore ci batteva direttamente in testa, martellante. Segno che tra il benessere dei nostri piedi e il benessere generale del nostro organismo c'è una stretta relazione. Allora oggi ho pensato di regalare qualche minuto di benessere ai nostri piedi. Ci facciamo insegnare un massaggio da un esperto, il signor Enrico Corsi, autore del libro Massaggio thailandese del piede. Buongiorno signor Corsi e benvenuto. Buongiorno. Signor Corsi, ci affidiamo a lei, mettiamo i nostri piedi nelle sue mani. Che facciamo? Ci togliamo la scarpa, pieghiamo la gamba, ci siamo seduti su una poltrona, su un divano, sì. pieghiamo la gamba e la solleviamo se abbiamo questa possibilità e poi iniziamo a fare un massaggio sulla parte plantare. E facciamo una digitopressione, sì, utilizzando entrambi i pollici sovrapposti. Uno sopra l'altro, mentre con le altre dita afferriamo il collo del piede?